giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Stipendi bassi e stress, venerdì prossimo autisti in sciopero, meglio il camion dell'autobus, spiegano. Picchiata in casa dal compagno ubriaco, i provvedimenti della questura di Udine nei casi di violenza. Nella giornata contro la violenza sulle donne a Udine una criminologa spiega i campanelli d'allarme. Non solo gas, aumenta anche la bolletta dell'acqua, ma l'aggravio per le famiglie sarà contenuto. In Carso un cavallo imbizzarrito colpisce la sua proprietaria, ricoverata in gravi condizioni. Caffè Contarena, il tribunale di Udine apre la liquidazione giudiziale del gestore, ci sarà una nuova gara. Altri 24 milioni nella finanziaria regionale, 5 ai comuni per non perdere i fondi PNRR. Parte da Pavia di Udine la somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie. In dicembre saranno 200. Esposte a Trieste una sessantina di opere di Banksy, il writer più misterioso e controverso. 7:19 minuti di venerdì 25 novembre. Buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Le temperature delle 6 di questa mattina: a Trieste 9 gradi, a Gorizia 6 gradi, a Udine 4, a Pordenone 3 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 2 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 1 grado e 5 decimi, sul Piancavallo 1 grado sotto zero, a Tarvisio meno 3 gradi, a Sappada meno 4, su Monte Zoncolan e Monte Lussari 0 gradi, a Lignano e grado 9. Le previsioni: oggi il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, su bassa pianura e costa probabile cielo variabile, specie nel pomeriggio, e non si esclude del tutto qualche debole pioggia o rovescio sul mare. Possibili locali foschie nelle ore notturne sulla pianura e localmente anche a fondovalle. In serata soffierà bora moderata sulla costa. È stato riaperto ieri con senso unico alternato il tratto da Rigolato a Forni a Voltri della strada regionale 355 della Val Degano, chiuso a causa di una frana. La circolazione sarà però consentita per fasce orarie. La strada sarà aperta sempre con senso unico fino alle 8:30 del mattino, sarà poi chiusa dalle 8:30 fino alle 11:30, riaprirà poi fino alle 14:00 e di nuovo sarà chiusa per consentire i lavori fino alle 17, ora in cui riaprirà sempre con senso unico alternato. La protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale di Trieste e Pordenone, che si concretizzerà nello sciopero della mattina di venerdì 2 dicembre. Gli autisti dei mezzi chiedono un aumento dei salari e il miglioramento delle condizioni di lavoro e soprattutto l'assunzione di nuovo personale. Venerdì 2 dicembre, sciopero del trasporto pubblico locale a Trieste e Pordenone. Ad incrociare le braccia i lavoratori di Trieste Trasporti e di ATAP, i sindacati chiedono un incremento della forza lavoro, no a turni in appalto, un miglioramento della qualità del lavoro e un aumento salariale. Lo stipendio è di 1.200 euro al mese a fronte di molte responsabilità e tanto stress. Stefano Mauro, CGIL Filt. Uno dei colleghi che è con anzianità di servizio dai 20 ai 25 anni e con più di 50 anni di età, che hanno scelto di rimettersi completamente in gioco, di cambiare vita, perché non ce la facevano più. Qualcuno magari è andato a guidare camion o qualcos'altro da un'altra parte, e c'è chi invece ha cambiato completamente attività. Se Trieste è appena stata eletta città europea 2022 anche grazie alla qualità del trasporto pubblico locale, spiega il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi, che però non nega le difficoltà del personale. Gli autisti sono quelli che mandano avanti tutta la baracca, quindi massimo rispetto e attenzione per le loro esigenze. 800 dipendenti, di cui 590 autisti, trovarne di nuovi è difficilissimo. Faccio questo mestiere da 25-26 anni ormai, tutto diventa per noi più difficile, stressante. Ai concorsi si presentano pochissimi candidati e se vincono spesso mollano. È capitato che qualcuno è stato assunto e dopo una settimana si è dimesso. È un lavoro duro, è un lavoro complicato. Forse lo stipendio è troppo basso. Il contratto collettivo è nazionale, è uno dei temi della trattativa e sicuramente anche nella contrattazione di secondo livello un supporto, un sostegno allo stipendio, certo. Tra le nuove emergenze anche quella che riguarda l'utenza, una tratta in particolare è sotto pressione quella che collega il centro con l'altipiano, dove ci sono comunità che ospitano migranti. I bus sono sovraffollati, l'utenza locale si lamenta. Michele Scozzai, responsabile URP. È un malcontento dovuto per lo più al fatto che la grande maggioranza dei migranti accolti sul territorio in questo momento stanno viaggiando senza un regolare titolo di viaggio. Le nuove convenzioni, ci spiegano dalla Caritas, non prevedono più l'abbonamento mensile, non c'è budget. Vengono garantiti biglietti solo per le visite istituzionali, appuntamenti sanitari o questura. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma la cronaca del territorio registra nuovi casi di reati all'interno della famiglia. È solo l'ultimo caso in ordine di tempo di violenza sulle donne in Friuli. Una decina di giorni fa gli agenti della volante della questura di Udine hanno arrestato un cittadino marocchino 29enne residente in città. A chiamare i poliziotti la compagna che chiedeva aiuto parlando di percosse e abusi. In casa i poliziotti l'hanno trovata in lacrime, scosse con escoriazioni sanguinanti al naso e sulla fronte. In casa, in una culla, anche la figlia neonata della coppia, che fortunatamente dormiva. L'uomo, ubriaco e alterato dall'alcol. Dalle testimonianze la polizia ha ricostruito una lunga storia di violenze fisiche e di abusi psicologici. Il giorno successivo il giudice per le indagini preliminari, per fermare il ripetersi dei maltrattamenti, ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi frequentati dalla donna. Un impegno costante da parte degli uomini delle forze dell'ordine, quello contro la violenza di genere. Impegno e vigilanza che si tramutano in 18 ammonimenti alla data del 20 novembre da parte del questore di Udine. 11 di questi sono rivolti a uomini per atti persecutori. 7 di cui 5 uomini e 2 donne per atti di violenza domestica. Alfredo D'Agostino, questore di Udine. Effettivamente il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno che non conosce un decremento e questo ci induce a delle profonde riflessioni. Intanto alla necessità di un intervento che sia un intervento di sistema e non solo delle forze di polizia rispetto a questa fenomenologia appunto particolarmente preoccupante. Molte volte le donne non denunciano per paura, addirittura per paura della vergogna, e questa è una cosa sulla quale noi siamo particolarmente attenti. E ci tengo a dire a proposito di questo che l'accoglienza che le donne vittime di violenza riescono a trovare nei nostri uffici è massima, perché massima è l'attenzione e anche profonda è la formazione del nostro personale. La paura è un freno che non può giustificare il distacco rispetto a scelte che sono importanti per la propria incolumità. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Con le donne del mondo, anche i sindacati ribadiscono il loro no alla violenza di genere. Preparato un nuovo allestimento di CGL e CISL provinciali all'ingresso della sede unitaria di Pordenone in via San Valentino. A Trieste per l'intera giornata resterà accesa una luce arancione nella stanza del comando provinciale dei carabinieri. I militari consegneranno alla popolazione un pieghevole con un semplice messaggio: denuncia, per ricordare che l'arma è dalla parte delle vittime di violenza, per fornire coraggio alle donne in difficoltà. A Pordenone, nella sede del comando provinciale dei carabinieri, sarà inaugurata l'aula riservata all'audizione di donne vittime di violenza, realizzata dal locale Sor Optimist Club con il lascito di una socia alle 11:15. Stanotte l'Università di Udine è illuminato di rosso, Palazzo Florio. L'iniziativa, che sarà ripetuta anche stasera, è promossa dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Ateneo per sensibilizzare la comunità accademica e la cittadinanza. E oggi la seconda di 4 iniziative organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine alle 17 nel Salone del Popolo, il progetto Rispetto e la proiezione del cortometraggio La Panchina Rossa, poi l'accensione e l'illuminazione della loggia di San Giovanni. La parità tra uomo e donna deve essere raggiunta anche sul piano finanziario. È per questo che gli Stati Generali di Donne e la Fondazione Gaia promuovono un evento online sull'educazione finanziaria al femminile. Il link per partecipare si trova sul sito del Museo del Risparmio e la lezione si terrà dalle 18 alle 19. A Tolmezzo sarà presentato il libro Ultimo appuntamento sul tagliamento di Daniele Paroni, all'incontro alla Biblioteca Pittoni alle 18:15 saranno presenti i genitori di Nadia Orlando e la mamma di Lisa Puzzoli, entrambe vittime di femminicidio. L'Istituto Tecnico Zanon di Udine ricorda la giornata contro la violenza sulle donne con il progetto di istituto Rispettami, un percorso di educazione ai sentimenti e per la prevenzione della violenza di genere. In particolare sarà ricordata Nadia Orlando, ex studentessa dell'istituto, vittima di femminicidio nell'estate 2017. Si comincia alle 9 con una staffetta di lettura, seguita da un incontro con l'educatore musicista Marco Anzovino alle 10:30 nell'auditorium Zanon. Nel pomeriggio letture e riflessioni nell'angolo di Nadia nella biblioteca dell'istituto. E anche gli anziani dicono no alla violenza sulle donne. A Porcia, nel giardino comune del centro di Urno, verrà inaugurata una panchina rossa e un telo in memoria delle vittime di violenza sulle donne. A Muggia, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità, la realizzazione comincerà alle 17 in piazza Marconi. E sempre nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne, al liceo Copernico di Udine, il personale specializzato della questura di Udine rinnoverà la campagna permanente della polizia Questo non è amore, per sensibilizzare ed informare i giovani adolescenti e favorire il cambiamento culturale. Tra gli interventi anche quello della criminologa Angelica Giancola, che ci ha descritto quali sono i campanelli d'allarme di fronte ai quali una donna deve cominciare a preoccuparsi. Molte donne faticano a riconoscere le situazioni di pericolo e quindi uno dei nostri obiettivi è proprio quello di individuare quelli che sono i segnali che potrebbero essere predittivi, indicativi di potenziali forme di violenza. Il problema qual è? È la violenza psicologica, perché la violenza psicologica è quella forma di sopruso che è più difficile da identificare, perché molti gesti di prevaricazione, di controllo, vengono spesso confusi come degli atteggiamenti di attenzione e di cura da parte del partner. E quindi è fondamentale insegnare alle ragazze fin dall'infanzia ormai, direi, quelli che sono proprio i campanelli d'allarme, perché questi uomini inizialmente vogliono apparire come degli ottimi amanti, cioè fanno sentire la donna come una regina. In realtà nel giro di pochissimo tempo poi però questi campanelli iniziano a suonare. E quali sono quelli più frequenti? Allora, si rivolgono alla donna in maniera molto aggressiva, con un tono di voce alto. Quando sono in presenza di altre persone contraddicono la donna e la vanno a sminuire su tutto quello che dice. Quando esce con le amiche le si recrimina il fatto di non essere una buona madre, una buona compagna, perché uscire vuol dire lasciare da sola la propria famiglia. Oppure impedire alla donna di presentarsi agli appuntamenti da sola. Voglio uscire con le mie amiche, invece questo si presenta, o si presenta continuamente sul posto del lavoro. Un'altra cosa è quando vengono richieste tutte le password di accesso, che possono essere ai PC, social media, cellulare, e fanno passare questa richiesta come ti amo talmente tanto, io devo sapere tutto di te, se tu non me le dai vuol dire che non mi ami allo stesso modo. E come deve rispondere una donna invece? Ci sono degli sportelli a cui queste donne si possono rivolgere. Quindi intanto il primo passo da fare è chiedere aiuto, cioè quello che sto vivendo è normale oppure no? E passiamo ora alla cronaca. Una donna di 53 anni è rimasta ferita in modo grave ieri dopo essere stata colpita al capo e al torace dal suo cavallo che si era imbizzarrito. È successo nel pomeriggio in un bosco di Gabrovizza sul Carso. Il personale del 118 è stato allertato dagli operatori del numero unico dell'emergenza 112. I sanitari sono arrivati da Opicina e da Santa Croce con un'ambulanza e un'automedica. La donna è stata intubata sul posto e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche i carabinieri. Voltiamo pagina. La Giunta regionale ha approvato alcuni emendamenti alla legge di stabilità regionale che aggiungeranno 24 milioni di euro alla manovra. Di questi 9,5 milioni andranno alle infrastrutture, 9,2 dei quali in delegazione amministrativa a Friuli Venezia Giulia strade per la sistemazione della viabilità della strada regionale 56 di Butrio e per la progettazione e realizzazione degli interventi sulla strada regionale 14 15 di Fiume Veneto. Un accordo con la Polizia di Stato per la sicurezza sulle strade impegnerà qui 150.000 euro. Tra gli altri emendamenti di rilievo spiccano i 3 milioni e mezzo per l'area della caserma Osoppo di Udine, destinata ad adibire uffici della Regione, e 3,7 milioni per l'ambiente e 5 milioni assegnati ai comuni con meno di 15.000 abitanti che si trovano in difficoltà di cassa ad affrontare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E parliamo ora di prezzi in aumento e di caro bollette. Non c'è solo il gas, pagheremo di più anche l'acqua. Gli aumenti per le famiglie saranno tuttavia contenuti e fondamentalmente proporzionati agli adeguamenti e miglioramenti delle reti con i relativi costi sostenuti dai gestori. Riviste al rialzo, ma sotto i limiti massimi fissati dall'Authority nazionale, le tariffe dell'acqua sia per il 2022 che per il 2023. Le percentuali di incremento sono diverse per ciascuno dei 7 gestori della regione, dall'1,5 al 7%, perché ognuno di loro è arrivato all'adeguamento con una diversa situazione a livello di investimenti. Giambattista Graziani, amministratore unico di Risacqua a Gorizia. 1,49% vuol dire che su 100 euro di bolletta idrica ci sarà un incremento di 1,5 euro. Visto la contingenza economica di questo periodo, diciamo, siamo soddisfatti. L'aumento medio previsto per i nuclei familiari va dai 10 ai 25 euro l'anno. Gli incrementi sono stati validati da AUSIR, l'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti, che li trasmetterà per l'ok finale all'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, rete e ambiente nazionale, la quale ricorda che ogni aumento delle tariffe deve essere legato a investimenti ed efficientamento del servizio, ma anche all'obbligo di equilibrio economico e finanziario. Per Idrogea, Pordenone, ad esempio, gli aumenti andranno a compensare i rincari sui materiali, quest'ultimi saliti del 35%. Marcello Del Zotto, presidente di AUSIR. I gestori hanno dovuto far fronte anche al momento siccitoso, quindi un aumento chiaramente nelle manutenzioni del territorio, riparazioni o interventi straordinari per dare supporto alla popolazione. Ho dovuto far fronte anche ad incrementi di costi che evidentemente non venivano riconosciuti prima in tariffa e devono uscire chiaramente dai bilanci delle stesse aziende. I 7 gestori recentemente si sono costituiti in rete d'impresa e stanno lavorando in sinergia anche sul PNRR. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Si chiude l'annosa contesa tra Comune di Udine e società che aveva in gestione lo storico caffè Contarena di Palazzo d'Aronco. Il Tribunale di Udine ha accolto la richiesta di liquidazione giudiziale presentata dal Comune e dal Pubblico Ministero nei confronti di Spritz Time, la società gestrice del Contarena, la cui chiusura è dunque imminente in attesa di un nuovo bando di gara. Una vicenda che ha assunto negli anni tratti surreali, ha commentato il sindaco Pietro Fontanini, ricordando il debito della società verso il comune di circa 430.000 euro e un piano di rientro rigettato dallo stesso tribunale. Parla di battaglia legale giusta l'assessore al patrimonio Francesca Laudicina, a tutela dei beni immobili appartenenti alla comunità da pericoli rappresentati da gestioni opache o palesemente irregolari. I gruppi consigliari Idee in Comune e Cittadini organizzano nella sala consigliare del municipio a Vigo Novo di Fontana Fredda alle 20 il convegno Super Bonus 110, risultati e opportunità, confronto con gli esperti sui bonus edilizia ed energia. Interverranno tra gli altri Claudio Peruc, imprenditore e consigliere comunale, il deputato Luca Sut, membro commissione attività produttive, Valerio Pontarolo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Il Comune di Gorizia ha liquidato gli incentivi al personale dell'ente legati all'attività degli anni 2018 e 2019. Si tratta di poco più di 414.000 euro che saranno distribuiti fra circa 300 dipendenti, con cifre variabili legate alla valutazione assegnata ad ognuno. L'erogazione era stata bloccata dai rilievi della Corte dei Conti, superati poi da una legge regionale. Si tratta, spiega l'amministrazione, di compensi riconosciuti e dovuti, previsti dal fondo salario accessorio come incentivi alla produttività individuale. Vaccino anti-Covid in farmacia parte oggi da Pavia di Udine la sperimentazione. A dicembre somministrazione in 200 farmacie nella regione. Finora ha di poco sorpassato quota 110.000 la campagna per la quarta dose di vaccino anticovid in regione, attestandosi di poco sopra il 9% della platea degli interessati. Numeri che sono ancora lontani dalle campagne precedenti. La prima dose infatti era stata somministrata a 955.000 persone, la seconda a 908.000, la terza a 813.000, con percentuali superiori al 67%. Al momento l'attività degli 11 centri vaccinali attivi sul territorio è concentrata in 2, massimo 3 giorni a settimana, a fronte del progressivo diminuire di malati e ricoveri in ottobre al modesto rialzo del mese in corso. Commenta il presidente di Federfarma Friuli Venezia Giulia, Luca De Grassi. Si è visto che comunque la prima vaccinazione ha dato un livello di protezione molto importante, questo è un dato importante, ma anche questo ha fatto scendere forse la percezione del rischio, no? Quindi lei vede quando le cose vanno bene, poi dopo vengono interpretate magari in modo non così corretto. Ai nastri di partenza la fase sperimentale di somministrazione anche nelle farmacie, che entrerà a pieno ritmo a dicembre in 200 punti del territorio e che va a sommarsi alle inoculazioni accessibili dai medici di base. La quarta dose è raccomandata a fianco della vaccinazione antinfluenzale, di cui finora in regione sono state somministrate 156.000 dosi. Una convergenza, quella di Covid e influenza, finora ancora sconosciuta e per la quale si consiglia un'immunizzazione completa. La vaccinazione combinata, cioè contemporanea, è raccomandata dalle istituzioni e dagli esperti. Naturalmente qualsiasi dubbio, perché di questo può chiunque di noi può avere dei dubbi, può e deve essere risolto dal medico di fiducia. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Apre oggi a Udine Idea Natale, arriva alla 33esima edizione la manifestazione di Udine Gorizia Fiere, mancata all'appello solo nel 2020 a causa della pandemia. Fino a domenica a Torriano di Martignacco ci saranno oltre 150 espositori del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni. Creatività, solidarietà ma anche sostenibilità negli stand che proporranno oggetti e produzioni attente al risparmio, all'ambiente, al recupero di materiali. Come sempre ampio lo spazio per uno dei regali più amati nel padiglione 6 occupato da Idea Libro. Stand aperti dalle 10 alle 20 per 3 giornate piene. E ora la cultura con l'inaugurazione ieri al Salone degli Incanti di Trieste della mostra sull'artista di strada Banksy, dall'identità sconosciuta ma noto in tutto il mondo. 60 le opere esposte fino al 10 aprile. Banksy, il grande comunicatore, capace di utilizzare i canali del nostro tempo, dai social media alle performance, per veicolare messaggi dirompenti, di protesta e di critica feroce ai mali che affliggono la nostra società. 60 opere originali dell'artista di strada, la cui identità è sconosciuta eppure fra i più famosi al mondo, fino al 10 aprile, in mostra nel maestoso Salone degli Incanti a Trieste. Gianni Mercurio, curatore della mostra. Banksy non è un Picasso, non è un Andy Warhol, ma il suo grande valore, la sua grande importanza, anche rivoluzionaria, sarei dire, è quella di saper maneggiare in maniera formidabile la comunicazione, di fare della sua arte un capolavoro sempre di comunicazione, e infatti le sue opere sono dei messaggi. Nella più completa esposizione mai realizzata in Italia, le opere più iconiche e provocatorie, le denunce contro le ingiustizie del mondo, intrecciate con ironia e sarcasmo, opere che aggrediscono la critica al consumismo dei nostri tempi, l'orrore della guerra, la disumanità dei migranti morti in mare, ma anche l'innocenza dei bambini, messaggi di libertà e speranza. Un grande autoritratto intitolato L'angelo caduto, dove insomma io riconosco un po' l'artista, e poi alcune opere che parlano della coppia, dell'amore, anche abbastanza, in maniera abbastanza amara, quindi è un'escursione quasi nel sentimentalismo. Una mostra negli spazi messi a disposizione dal Comune, promossa dalla Regione. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Anche un artista molto pop. Forse fa uscire anche l'arte da quella nicchia, diciamo, di esperti o di appassionati, e la fa diventare molto divulgativa. E per questo ci abbiamo creduto molto e sono convinto che sarà un evento che avrà grande successo. Elena Scarrone, TGR Friuli Venezia Giulia. L'attrice triestina Sara Alzeta è vincitrice nelle categorie miglior attrice, premio giuria popolare della quarta edizione del premio teatrale Mauro Rostagno, organizzato a Roma e dedicato al sociologo e giornalista torinese assassinato dalla mafia nel 1988. La pièce presentata da Sara Alzeta, la Maria Farra di Manlio Marinelli, si è aggiudicata il premio per la miglior drammaturgia. Il premio letterario Caterina Percoto, oggi a Manzano, quest'anno legato a una dimensione particolare della grande scrittrice friulana, quella di cronista di guerra, testimone e narratrice dell'aspra repressione austriaca nei fatti di Jalmicco del 1848. Nell'auditorium di Via Zoruttila 18, tra gli ospiti ci sarà il corrispondente di guerra Fausto Biloslavo. Il premio Percoto sarà consegnato all'autore friulano Luca Maggio Zanon. Menzione speciale al giornalista e scrittore Gianpaolo Polesini e due i racconti in lingua friulana che hanno ricevuto la menzione dell'Arlef. Gli autori sono Leonardo Attilio Giavedoni, argentino di origine friulana, e la goriziana Egle Taverna. Tra le 61 opere esaminate provenienti da tutta Italia, quella del siciliano Massimo Vazzana era stata premiata a maggio come la migliore del premio nazionale di drammaturgia contemporanea intitolato al carnico Luigi Candoni. Ora Mendez e Brazzo vedrà la luce nell'allestimento scenico sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Una seconda edizione, quella del premio che ha voluto ricordare Candoni anche nella dicitura Ora Zero Espressione, con cui titolò la sua rivista d'avanguardia inaugurata nel 1958. I dettagli sulla nuova produzione teatrale saranno resi noti oggi a Udine. Giulietta e Romeo, lo spettacolo di danza più rappresentato di sempre in Italia, arriva per una data nel circuito ERT. Sul palcoscenico del Teatro Zancanaro di Sacile, il balletto di Roma, firma e coreografia di Fabrizio Monteverde, alle 21. Al Teatro Comunale di Monfalcone, il percorso a 200 anni dalla nascita di César Franchi, il compositore belga, sarà ricordato con un concerto con Marco Rizzi al violino, Gabriele Carcano al pianoforte e l'ensemble d'archi Quartetto di Venezia alle 20:45. Alle 20 al bar del teatro, dietro le quinte, introduzione al concerto. Il debutto triestino della direttrice Gianna Fratta, decana delle bacchette rosa in Italia e nel mondo, chiude la stagione sinfonica del Verdi di Trieste con un programma russo novecentesco tra von Zemlinsky, Rachmaninoff e Stravinsky. Al pianoforte il veneziano Alessandro Taverna, appuntamento alle 20:30. Chiude la stagione di Perle Musicali in Villa, organizzata dall'Associazione Musica Pura per la direzione artistica di Eddie De Nadai nella Galleria Bertoia a Pordenone. Alle 20:30 un concerto legato alla mostra Elliot Erwitt, Il mio sguardo sul mondo, con la mezzo soprano Eleonora De Prez, vincitrice dell'ultimo concorso internazionale di canto cameristico Seghizzi di Gorizia e da poco entrata nella compagine del coro del teatro alla Scala, la più giovane tra i coristi del Tempio della Musica Italiana. Insieme a lei il pianista uruguaiano Matteo Servian Sforza. Al via al tricesimo il campionato italiano a squadre del gioco della dama, con 41 compagini in rappresentanza dei circoli damistici di ogni parte d'Italia. Per la regione in campo le rappresentative di Trieste, Pordenone, Zoppola e, a difendere i colori della provincia di Udine, Gemona e Tolmezzo. La curiosità del club di Tolmezzo è che schiera sulla prima damiera Renzo Tondo, ex governatore del Friuli Venezia Giulia. Il gioco della dama è oggi considerato a tutti gli effetti sport e la federazione dipende direttamente dal CONI dal 1993. Eccoci alla nostra rassegna stampa sul piccolo, edizione di Trieste. Apertura dedicata ai fondi del PNRR che premiano i centri di ricerca triestini. 140 milioni al sistema della scienza. Un'enorme opportunità, si legge nelle pagine interne, per il sistema Trieste, ma ci sono alcune criticità legate ai tempi, considerati troppo stringenti, e la natura una tantum del finanziamento. Al centro la fotonotizia per l'apertura della palestra nel palazzo dell'ex Banco di Napoli, che è avvenuta alle 7 di stamattina. Il locale, inaugurato ieri con la presenza del governatore Massimiliano Fedriga, occupa 2.100 metri quadrati e si snoda su 5 livelli. Spazio in pagina anche per i traffici record del porto di Trieste. Per container e ro-ro sale anche il porto di Monfalcone, ma ci sono timori per il 2023. Per la cronaca, è in rianimazione a Cattinara la donna travolta sul Carso dal suo cavallo, che si è imbizzarrito all'improvviso e l'ha colpita, provocandole traumi alla testa e al torace, mentre a fondo pagina la mostra delle opere di Banksy all'ex pescheria. All'interno, nelle pagine di Trieste, si parla delle violenze sulle donne. Dal 99 a oggi, si legge, sono state 5.000 le richieste di aiuto pervenute al centro antiviolenza GOAP. Muore in Toscana dopo un intervento 50 indagati in 4 strutture sanitarie. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine per il caso di una 68enne di Villa Santina. Accanto Fontanini decide di ricandidarsi a sindaco di Udine. Domani l'annuncio. Nella colonna di cronaca, il caffè Contarena è in liquidazione, gara per la gestione, tema anche in apertura della cronaca cittadina. Sotto il masso sulla strada tra Sapada e Forni a Voltri e la Io a Teresa Cois, la nonna di Attimis, aveva compiuto 108 anni. In alto la regione che stanzia altri 24 milioni e la finanziaria sale così a 5 miliardi. In taglio basso il sigillo di Udine allo storico calzolaio Onelio di via Mazzini. Benzina alla montagna protesta e l'apertura del Gazzettino del Friuli nella fotonotizia. La vicenda del caffè Contarena e per la cronaca la donna maltrattata dal compagno, poi arrestato. Di spalla anche la protesta dei camici bianchi che ancora non rientra e le indagini dell'autorità anticorruzione sulla gestione dei rifiuti ospedalieri all'azienda dall'ARCS di Udine. Il servizio sarebbe stato gestito in modo inefficace violando il principio di concorrenza. Nell'edizione di Gorizia il Piccolo apre con l'arte una fotonotizia dedicata alla mostra multimediale su Klimt al Tiare di Villesse. Al centro la crescita di Porto Rosega con i traffici su del 5,7%, di cui si era già parlato a proposito dell'edizione di Trieste. Per la cronaca cittadina una buona notizia per i dipendenti del comune di Gorizia, come già detto prima, che a novembre riceveranno in busta paga gli incentivi arretrati del 2018 e del 2019, un totale di 415.000 euro da distribuire su 300 persone. Si parla anche delle condanne nei confronti di 2 guardie carcerarie e dei parenti di alcuni detenuti per aver fornito loro nel 2015 alcol, droga e cellulare durante il periodo di prigionia. Il traffico è stato smantellato dai carabinieri, ma si parla anche del genio di grado, cioè quello dei fratelli Marocco, inventori del sistema automatico di paratie Rana Galle, che protegge alcuni palazzi della città dalle maree. Ce lo chiedono, dicono, anche dall'Arabia Saudita. Così abbiamo fatto conoscere l'isola. Infine, a Gorizia, i funerali di Gianni Bisiak, che sognava per la sua città un futuro da piccola Oxford. Sul Gazzettino di Pordenone in prima pagina c'è la richiesta di processo immediato per la soldatessa americana che investì e uccise il 15enne pordenonese Giovanni Zanier. Nella fotonotizia l'appello di Mauro Corona per la montagna, la fuga dalle vette si batte con il divertimento. Di spalla il caso Cimolaivia libera il pagamento di alcuni fornitori, liberati una quota di crediti dell'azienda. Pordenone, poi le proteste degli studenti per i bagni in autostazione, servono 50 centesimi per entrare, in basso lo sport con il Pordenone Calcio e il trofeo di ciclocross. Sul Messaggero Veneto, fotonotizia per l'evento di lunedì al Verdi a 20 anni dalla grande alluvione. Accanto arriva la fibra, dopo i cantieri le strade sono da rifare, sotto anche la cassa integrazione in cartiera Cordenons e il processo Lampo, anche qui chiesto per la morte del ragazzo travolto da una militare di Aviano ad agosto. Il comitato ABC, Ambiente Bene per le Comunità, organizza un dibattito a San Vito al Tagliamento, aperto alla cittadinanza, dal titolo Nuovo inceneritore di rifiuti nel Pordenonese, a chi conviene? Alle 21. All'Auditorium Alla Fratta di San Daniele, incontro del progetto Una vita spesa per la legalità, quest'anno dedicato ai difensori della natura, ospiti della serata Davis Bonanni, Elsa Merlino e Franceschino Barazzutti alle 20:45. Oggi e domani il 57esimo incontro culturale Mitteleuropeo, intitolato Canti dell'infinito, filosofia, religiosità e poesia in Carlo Michelstetter, Biagio Marin e Pierpaolo Pasolini. A Gorizia presenti una ventina di studiosi nel Salone d'Onore Carlo X del Grand Hotel Entourage. Più lingue, più cultura, più Europa. Nel cartellone di Sons Europe, il titolo della tavola rotonda delle 17:30 nella Mediateca di Gorizia. E modera Marco Stolfo, docente di storia contemporanea e di comunicazione di massa nel corso di laurea in relazioni pubbliche nella sede di Gorizia dell'Università di Udine. Nella biblioteca del seminario diocesano di Gorizia alle 21 un incontro pubblico sul tema La fatica di una giustizia giusta, organizzato dall'Associazione Città dell'Uomo. Ospiti è Luca Grion, professore di filosofia morale dell'Università di Udine, e Alberto Quagliotto, direttore della Casa circondariale di Gorizia. L'intelligence, la security, il loro capisaldi, titolo del convegno in programma a Gorizia nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Nel nuovo spazio di Casso al Vajont, dalle 9:30, un workshop sulla rigenerazione alpina, intitolato Montagna, patrimonio, riuso, a cura di Dolomiti Contemporanee e in collaborazione con le Fondazioni Dolomiti UNESCO, la magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e il comune di e Casso. E prosegue il progetto Tracce del Confine, che coinvolge i territori di Pontebba, Malborghetto, Valbruna e Tarvisio. Alle 18 nel Palazzo Veneziano di Malborghetto la proiezione di Tracce del Confine, il passaggio di Napoleone, con Paolo Foramitti, storico, sul tema La collina di Rutte. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 il consueto appuntamento con Vueo Fevelin D, che parlerà dei percorsi inclusivi alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, progetto dell'associazione Io Ci Vado. Alle 11:20 un tranquillo weekend da paura sulle iniziative volte a contrastare la violenza di genere. I programmi regionali torneranno poi alle 13:29. In regia Gianpaolo Zucchi ed Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.